Griselda. Altro non manca che il sovrano tuo impero. Impaziente è un amor tutto poco. Anche Griselda basti. La tua viltà le chiare fiamme stinse. Per l'illustre tua sposa arda due terre. Si spezza. Che più chiede? L'estrema prova di sua fermezza. Ottone. Mio sire. T'avanza. E tu, Griselda. Obbedisco. E fia. Assai soffristi. È degno di prego il tuo coraggio. E non pietade. Più non sarai, Griselda, pastorella nei boschi, o ancella in corte, ma... Che... Cor mio che tenti, signor, del fidottor sarai consorte. Gioie non uccidete, io dottore, con cora del sangue devirarlo, affumante la spada. E là, apposta, eccoti vivo il figlio. Oh figlio, oh dolce conforto del mio cuore. Sol dottore all'amore devi sì cara vita. Egli dovea ucciderlo e non fece perché troppo t'amò. Giusta mercede or della sua pietà sia la tua fede. Ah, mio sì! Ubbidisci, te il comanda il tuo re. Mio re, mio nome, mio sposo un tempo. Ed i tuoi cenni ognora leggi mi feci, il sai, dillo tu stesso, popoli dite voi che lo vedeste, ma chi di Ottone si sposa, e questo gli caro me, che sono libero dal tuo impero, io m'ho servato. Tu avessi e tu amarò lacrime non uscite. O mai risolvi, o di Ottone, o di morte. Morte, morte, o signor, servi, custodi, e tormenti d'espriti, la morte mia, la gloria che avrà di voi del primo colpo. O sposa, alla tua mano il chiedo, e prostrato lo chiedo. Fa ch'io vado e venivi con l'onor di tua fede e che vi additi le tue belle ferite o pregia di tuoi nomi o del tuo braccio. Non più, cor mio, non più, sposa, t'abbraccio. Miserabile. Popoli, che re siete del cielo e del re vostro, o mai vedete qual regina ho a voi scelta, o me qual moglie? E mio re, sole mia colpa, il pubblico delitto, ecco, perdone chiedo! Il tuo dolor mi basta e te il concedo. Taci, o Griselda. Te lo confesso, me pena di costanza la sorte, e mai degna di te. Sposa del padre, e mai la figlia. Come? Il dica Corrado. Sì, costanza è tua prole, che piangesti veleno. Oh, figlia, oh, madre, lei mi predisse il cuore e non mi intesi. Tu, l'amor di Costanza, ancora in sposa ti dono. Tutto non mi involar, Roberto amato. Il tuo dono, gran re, mi fa beato. Meco mai riedio, cara, sulla real mia sede. E sia Bernardo il tuo.